Ad alta voce. Le metamorfosi di Ovidio, tradotte e lette da Vittorio Sermonti. Libro tredicesimo, versi 382-674. Ulisse ha concluso davanti all'assemblea dei capi la sua requisitoria avvocatesca per ottenere le armi di Achille, alternando astutamente sarcasmo, pathos e cavilli. L'assemblea dei capi gli crede, testimoniando il potere dell'eloquio. Quelle armi d'eroe le ottiene così un avvocato. E chi tante volte da solo aveva tenuto testa a Ettore, al ferro, al fuoco, a Giove, alla collera no. Al rancore l'invitto soldato si arrende, sguainata la spada, fa: «Questa almeno è mia, o Ulisse vuole anche questa, e tempo si renda utile contro di me. Chi ha grondato tanto sangue troiano, ora grondi il sangue del suo signore. Così nessun altro che Aiace avrà sconfitto Aiace». Dice, e nel petto ancora inviolato, e nel punto dove il ferro affonda meglio, si pianta la spada assassina. Non ci fu mano in grado di estrarre quella punta di spada. Lo stesso sangue finì per espellerla e, arrossata, la terra sprigiona da una zolla verdissima un fiore di porpora, il fiore spuntato a suo tempo dalla ferita di Giacinto, figlio di Ebalo. Iscritte sui petali leggi lettere «Ai, ai» che accomunano guerriero a giovane, il nome del guerriero al lamento del giovane. Ulisse allora fa vela sul paese del grande Toante e di Psipile, terra infamata dal sangue d'un memorabile eccidio di maschi, per recuperare le frecce di Ercole. Restituite ai greci le frecce con chi le detiene, alla buon'ora l'annosa guerra può dirsi esaurita. Cadono insieme Troia e Priamo. La sventuratissima moglie di Priamo, dopo aver perso tutto, perde la forma umana e atterrisce di strani latrati un cielo straniero laddove si stringe la lunghezza dell'Ellesponto. Ilio brucia, le fiamme non accennano ancora a sedarsi, l'altare di Giove ha bevuto le due gocce di sangue del vecchio re. Tirata per i capelli, la sacerdotessa di Febo, Cassandra, protende al cielo disperatissime braccia. Le madri troiane nei templi che bruciano, fin quando possono, si abbarbicano alle immagini degli dèi della patria. I greci se le strappano, quasi che fossero invidiabili prede di caccia. Da quella torre da cui sua madre usava mostrargli il padre che combatteva per difendere lui, per difendere i regni degli avi, a stianatte lo scaraventano giù. Già soffiando propizio in vele che schioccano, il vento del nord ingiunge di prendere il mare e il pilota vuole sfruttarlo. «Troia, addio, ci portano via», gridan le donne e abbandonano macerie fumanti di casa e di patria, baciando la terra. Per ultima sale a bordo, rintracciata nel sepolcreto dei figli, che strazio vederla così, la regina. L'han catturata i soldati di Ulisse, che tempestava di baci i suoi morti, aggrappata ai tumuli, ma le ceneri di uno è riuscita a nasconderle in seno e portarsele con sé, le ceneri di Ettore. E sul tumulo non gli ha lasciato che qualche capello bianco, offerta proprio da niente, lacrime e qualche capello. Di fronte alla Frigia, ove un tempo era Troia, c'è la regione abitata dai Bistoni. Lì troneggiava fastosa la reggia di Polimnestore, al quale tuo padre ti aveva affidato, Polidoro, che ti crescesse lontano dalle battaglie. Buona idea, non gli avesse al contempo rimesso un enorme tesoro, istigazione alla cieca bramosia, ghiotto premio del crimine. E appena la sorte dei Frigi appare segnata, l'infame re dei Traci prende la spada e la caccia in gola al ragazzo. E quasi occultando la vittima si cancellasse il delitto, scaraventa dalla scogliera nell'acqua del mare il cadavere. Al litorale di Tracia, l'Atride ha ancorato la flotta in attesa d'un mare più calmo e di venti meglio disposti. E lì, di colpo, grande quant'era grande da vivo, sbuca da un largo squarcio del terreno Achille. Ha la stessa truce grinta di quando furente si avventò su Agamennone re, brandendo la spada senza una buona ragione, e urla: «Così ve ne andate, scordandomi? Avete sepolto con me la memoria del mio valore e la gratitudine, greci? Non fatelo! Non lasciate la mia tomba senza un omaggio! Immolate ai mani di Achille Polissena e datemi pace!» Per assecondare le torve ossessioni dell'ombra, i compagni la strappan di braccio alla madre, lei l'ultima che la consola, lei vergine sventurata e impavida più che una donna, destinandola in olocausto allo spietato cadavere. Ma lei no, che non si dimentica di sé, e quando vedendosi tradotta all'altare infame, capisce di essere lei la vittima designata, e vede Neottolemo in piedi che stringe la spada e le pianta gli occhi negli occhi. «Che aspetti?» gli dice, «a servirti del mio nobile sangue. Non c'è tempo da perdere. Piantami la spada in gola o nel petto». E mentre lo dice si scopre insieme il petto e la gola. «Pensate che io, Polissena, sia disposta a servire qualcuno? O credete di farvi amico qualche nume col mio sacrificio? Solo questo vorrei, che mia madre ignorasse la mia esecuzione. Mi rovina lei la dolcezza di morire, mia madre, anche se non della mia morte dovrebbe disperarsi, ma della sua vita. E voi vi supplico, statemi lontani, che libera voglio scendere alle ombre, se troppo non chiedo, senza che mano di maschio l'abbia toccato questo corpo di vergine. A chiunque vogliate immolarmi sarà più gradito ed utile un sangue intatto. Comunque, se queste parole estreme commuovono qualcuno, vi sta supplicando la figlia di Priamo, non una schiava. Rendete a mia madre il mio corpo, ma senza pretendere riscatto. Il diritto di darmi una tomba lo ottenga col pianto, non con l'oro. Anche con l'oro lo avrebbe ottenuto una volta. Dice, e le lacrime che lei trattiene non le trattiene il popolo. Il sacerdote stesso, nello squarciare il petto che ella gli porge, piange senza volere. Lei si piega sulle ginocchia, lei si abbandona per terra, ma nel viso presenta alla morte l'alterigia di sempre. Anche nel suo cadere si fa scrupolo di coprirsi per velar ciò che vuole velato, la dignità del pudore. Le troiane la prendono in braccio e ricontano i figli di Priamo perduti, ripensano il sangue che ha versato una sola famiglia, e te piangono, giovinetta, e te, moglie un tempo del re e madre di principi, immagine di un'Asia in fiore, oramai bottino scaduto, a segno che Ulisse trionfante ti avrebbe rifiutata se tu non avessi messo al mondo un Ettore. Ettore è proprio lui che a fatica, per sua madre, ha trovato un padrone. Ora abbracci quel corpicino svuotato da un'anima grande, versando pure per lei lacrime che troppe volte per la patria avevi versato, per i figli e il marito, e di lacrime inondi la piaga, e le copri le labbra di baci, e ti batti il petto, e strusciando sul sangue rappreso i capelli bianchi fra lamenti infiniti, col cuore straziato, rantoli questo: «Figlia, estremo martirio di tua madre, che c'è di più? Figlia mia morta, conosco nel tuo petto le mie ferite. Ecco, perché non si dica che io abbia perso un figlio, se non nel sangue anche tu. Io pensavo che donna, la spada risparmiata ti avrebbe, donna, ti ha massacrato una spada. Chi tanti fratelli ti ha ucciso anche te, sempre lui, rovina di Troia, sterminio della mia casa, lui, Achille. Quando cadde sotto le frecce di Apollo e di Paride, Achille, mi dicevo, d'ora in avanti non mi farà più paura. No, doveva farmene ancora. Le sue ceneri stesse infieriscono sulla mia gente. Sepolto continua ad odiarci. Per lui, nipote di Eaco, ho figliato. La grandissima Troia è crollata. In una catastrofe immane si è concluso lo scempio d'un popolo, ma si è concluso soltanto in me. Pergamo è ancora viva perché il mio dolore non muoia. Ero al vertice della potenza, orgogliosa di figli, di generi, di nuore e di mio marito. Ed eccomi esule, grama, strappata alle tombe dei miei e data in regalo a Penelope, che ha segnatomi il penso da tessere nel mostrarmi alle donne di Itaca, ecco la celebre madre di Ettore, ecco, dirà, la consorte di Priamo. E tu, dopo tanti morti, anche tu, che sola alleviavi il mio strazio di madre, sei stata immolata all'ombra del nostro nemico. Vittime gli ho partorito. Che duro io, durissima, a fare. Perché perdo tempo? Che cosa mi prometti, vecchiaia infinita? A che torvi dei preservate questa vecchia che non sa morire se non a lutti ulteriori? Chi avrebbe detto che Priamo, dopo il crollo di Troia, potesse chiamarsi un uomo felice? Sì, felice d'essere morto e di aver perso insieme la vita e il regno, senza vedere te morta, bambina. Comunque, figlia di re, ti aspettano esequie e regali, il tuo corpo sarà composto nel sepolcro degli avi. No, non è cosa che ci competa. Le tue sole onoranze saranno le lacrime di tua madre e un pugno di sabbia straniera. Ho perso tutto. Per dare un senso al po' che mi avanza da vivere, ormai non mi avanza che un figlio adorato, oggi l'unico, il più piccolo un tempo, dei maschi di casa, il mio Polidoro, affidato al buon re di Tracia, giusto in questa regione. Ma che aspetto a lavare con acqua lustrale queste ferite orrende e questo bel viso crudelmente spruzzato di sangue? Dice e con passo senile va verso la riva, strappandosi i capelli bianchi. Troiane, datemi un'anfora, ha appena detto la sventurata, per attingere acqua di mare, che vede sopra l'arena il cadavere di Polidoro, dai giavellotti dei traci crivellato di enormi ferite. Urlano le troiane, ammutolisce lei dal dolore, il dolore le succhia la voce, le assorbe le lacrime sull'orlo degli occhi, identica per durezza alla roccia più dura, si paralizza, ora pianta per terra gli occhi, ora leva ferocemente al cielo lo sguardo, ora il viso contempla del figlio sdraiato in terra, ora fissa le sue ferite, soprattutto quelle ferite, e si arma e si attrezza di collera. Quando è tutta rovente, delibera come fosse ancora regina di vendicarsi ed immagina i dettagli della vendetta. Come leonessa cui abbian sottratto un leoncino da latte e furente si metta sulle orme del ladro senza vederlo, così, non appena il dolore sei intriso d'ira, scordando la propria età ma non il proprio carattere, Ecuba chiede udienza al re Polimnestore, autore dell'efferato delitto, assumendo volergli segnalare il nascondiglio d'un altro gruzzolo d'oro da consegnare a suo figlio. Le crede il re Trace e, istigato dalla cupidigia di sempre, va al colloquio segreto e con voce suadente l'astuta canaglia Ecuba dice: «Ma sì, dammi questo tesoro, ti giuro sui celesti che io lo rimetto a tuo figlio, così come tutto quanto mi hai consegnato nel tempo». Mentre dice così, spergiurando, lei lo guarda torva, finché non trabocca la lava dell'ira e lo afferra e convoca urlando la folla delle troiane prigioniere e ficca le dita negli occhi del traditore e gli strappa i bulbi dalle orbite. L'ira ne ha fatto una belva e ci affonda dentro le mani e, inzuppata di sangue, rovista non dico negli occhi, nel posto dove prima c'erano gli occhi. I traci, inorriditi dallo scempio del re, cominciano a bersagliare di lance e di pietre la vecchia troiana, ma lei, con un ringhio sordo, si avventa sui sassi addentandoli e, quando spalanca la bocca per pronunciare parole, latra. C'è ancora quel luogo e deve ancora all'evento il nome greco di Cagna. Ricordando le antiche sciagure, lei continua a infestare i campi di Tracia d'un lugubre urlio. La sua sventura ha commosso i compatrioti troiani, ma anche i nemici greci e anche tutti gli dèi, sì, tutti, così che perfino la sposa e sorella di Giove riconobbe che Ecuba non meritava una fine del genere. Sebbene per i troiani parteggiasse, l'Aurora non pianse granché le sciagure di Ecuba e il crollo della città. Un dolore più prossimo, un lutto domestico, strazia la dea dalla morte di Memnone, il figlio che lei, madre tinta d'arancio, ha visto con i suoi occhi soccombere all'asta di Achille. E nel vederlo, il colore che imporpora il primo mattino è sbiadito, l'azzurro del cielo si è nascosto dietro le nuvole. No, non sopporta la vista del cadavere di quel suo figlio deposto sul rogo fatale. Così come si trova, i capelli sciolti, non si fa scrupolo di gettarsi ai piedi del sommo Giove e in ginocchio integrare con queste parole le lacrime. Inferiore a tutte le dee alloggiate nell'oro dell'etere, sulla terra per quanto è grande, se li conti, ho pochissimi templi, ma pur sempre dea, son venuta non per mendicare santuari o un qualche giorno festivo o altari roventi di fiamme, per quanto, se tu pensassi ai servizi che donna ti presto con le prime luci, impedendo alla notte di sconfinare, un premio me lo daresti. Ma l'Aurora non è nello spirito di rivendicare gli onori che merita, pensa a tutt'altro. Ho perso il mio Memnone, invano sceso in campo da forte in difesa di Priamo, suo zio, e nel fiore degli anni ucciso dal grande Achille, lo avete deciso voi celesti. Per questo son qui, ti prego, concedigli un qualche distintivo che lo consoli della morte e mitighi, sommo dei numi, il mio strazio di madre». Giove annuisce e la pira di Memnone in un'immensa fiammata crolla e nerissime volute di fumo cancellano la luce del giorno, come quando i fiumi trasudano nebbia così spessa che non la trafiggono i raggi del sole, svolazzano ceneri grigie e si addensano fino a compattarsi in un unico corpo che assume dal fuoco la forma, il calore, la vita. La leggerezza lo dota di ali che prima ti sembrano ali di uccello, ma presto è un uccello vero che strepita con le penne. Poi dappertutto è un baccano innumerevole di fratelli in volo, nati tutti insieme da un'unica origine. Tre volte volteggiano intorno al rogo, tre volte all'unisono schiamazzano. Invece alla quarta si sono divisi in due stormi. A quel punto, da fronti opposti, due ferocissimi eserciti si muovono guerra e sfogano con becche e con unghie uncinate un odio cieco, cozzando con le ali e con le carcasse, finché corpi fraterni non si offrono in olocausto alla salma, ben consapevoli d'essere nati da un corpo d'eroe. Questi uccelli improvvisi prendono il nome da chi li ha prodotti. Da lui son detti Memnonidi, e quando il sole ha percorso i 12 segni, tornano alla rissa fraterna e a morire. Perciò, se in tanti si sono commossi ai latrati di Ecuba, chiusa nel proprio dolore, l'aurora piangeva e continua a piangere il figlio, irrorando di lacrime tutta la terra. Tuttavia, non permettono i fati che le speranze di Troia spariscano con le sue mura. Sulle spalle il figlio di Venere le immagini sacre si carica, e più sacro di tutto il fardello di suo padre col piccolo Ascanio e quello di tanti tesori, ciò che ha deciso il pio eroe di mettere in salvo. E salpato da Antandro con la sua flotta fuggiasca, si lascia alle spalle l'infame terra dei Traci, che sangue di Polidoro trasuda, e spinto da venti propizi e dalle correnti, approda coi suoi compagni a Delo, patria di Apollo. Lì Anio, buon re degli uomini, eccellente ministro del Dio, nel santuario e nel palazzo lo riceve, lo porta a vedere la città e i due alberi cui si aggrappò sopraparto Latona. Profuso incenso sul fuoco, sull'incenso spruzzato del vino e cremate secondo rito le interiora di buoi macellati, entrano dentro la reggia e, sdraiati su spessi tappeti, si godono i cibi di Cerere e i distillati di Bacco. Allora il pio Anchise, eccellente sacerdote di Febo, mi sbaglio? O la prima volta che ho visto queste mura, tu avevi un figlio maschio e, se ben ricordo, quattro figlie femmine. Sbaglio? Anio allora, scuotendo la testa avvolta in candide bende, risponde tristissimo: immenso eroe, non ti sbagli per niente. Mi hai visto padre di cinque creature, mi vedi, talmente siamo vessati dall'incostanza del caso, mi vedi praticamente senza figli. Mi spieghi l'aiuto che può darmi un figlio che vive lontano nell'isola di Andro, cui dà il nome e dove in luogo di suo padre funge da re. Apollo gli ha conferito la veggenza. Alle femmine Bacco un privilegio ha concesso che eccedeva qualsiasi speranza, incredibile. Tutto quel che toccava ognuna di loro si trasformava in grano, in vino, nell'olio del pallido ulivo di Atena, insomma, in una enorme ricchezza. Quando viene a saperlo l'Atride, eversore di Troia, non devi pensare che della vostra disfatta anche noi non abbiamo risentito. A mano armata le strappa recalcitranti alle braccia del padre ed ingiunge alle quattro ragazze di nutrire con quei doni del cielo la flotta dei Greci. Scappano ognuna dove le riesce. Due si rifugiano nell'isola Eubea, le altre due dal fratello ad Andro. Soldati si presentano, lui le consegni se non vuole la guerra. L'affetto si arrende alla paura e lui consegna le povere sorelle a un triste destino, debolezza che andrà perdonata. A difendere Andro non c'era Enea, non Ettore c'era, che vi ha consentito per quasi 10 anni di tener duro. E son pronte già le catene per le prigioniere, che quelle, levando al cielo le braccia libere ancora, padre Bacco, gridano, aiutaci tu. e quello che del privilegio le aveva dotate le aiuta. Se cancellare qualcuno può dirsi un aiuto. In che modo abbiano perso le loro figure non l'ho mai capito, però, e non posso spiegarlo. So solo come è andata a finire. Hanno messo piume, mutate in colombe bianche come la neve, i volatili cari a tua moglie.